Rinnovo i miei saluti a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla catechesi su San Giuseppe. Allora, oggi, come vi accennavo la settimana scorsa, apriamo un capitolo in parte nuovo, però sempre all'interno della, come dire, parte mistica di questa trattazione, cioè continuiamo a vedere l'azione soprannaturale di San Giuseppe, non però in apparizione e visioni da parte dei santi, quanto piuttosto in alcuni miracoli che San Giuseppe, o meglio che attraverso l'intervento, l'intercessione di San Giuseppe, Dio ha operato nel corso della storia. È una parte un pochino discorsiva perché ovviamente questi episodi bisogna leggerli, così come sono descritti dall'autore del libro, salvo come sempre poi qualche piccolo commento esplicativo, o se nel caso, e se è il caso, catechetico. L'autore esordisce in questa sezione facendo presente come se si dovessero descrivere tutti i favori e i miracoli fatti da Dio per intercessione di San Giuseppe e suoi fedeli, non si troverebbe sufficiente spazio in tutti i libri del mondo messi insieme. Una cosa simile a quella che scrive San Giovanni al termine del suo Vangelo, parlando dei miracoli di Gesù, quindi un accostamento un po' forte, se vogliamo, un po' ardito. E detto questo, accenna una serie di episodi, diciamo, non sono riuscito a capire molto bene in che tipo di ordine, sparso, quindi non riesco a trovare né un ordine cronologico né un ordine di importanza. Io, seguendo il testo, adesso li metto a vostra disposizione. Volevo far presente a Antonio che mi arriva in cuffia un ritorno fastidiosissimo, quindi se riesce a fermare un po', perché è terrificante. Va bene. Ok, l'importante è che non mi distoglie, perché faccio fatica a connettere con questo. È una cosa ininterrotta, continua, ed è terribile. Va bene, proviamo ad andare avanti con l'aiuto del Signore. Allora, il primo è che accadde a Shanghai, in Cina, nel 1934. Il protagonista è un avvocato di nome Lopa Hong, cristiano molto fervente, quindi è padre di 9 figli, che ritorna a casa all'imbrunire e vede un uomo steso a terra. Chiama un culi, si chiamano così, che sono quei portantini che girano, ecco, l'abbiamo visti tante volte nei film, in quella zona dell'Asia, insomma, che trasportano le persone con quei carrelli un po' caratteristici di quelle zone, e lo chiama appunto per trasportarlo all'ospedale più vicino. In questo ospedale però il malato viene rifiutato. Allora quest'uomo, con le vesti di un novello buon samaritano, se lo carica in spalla e lo porta a casa per curarlo. Ecco, attraverso questo episodio, dove quest'uomo ha esercitato in maniera chiara, insomma, ed evidente la carità cristiana, comincia a pensare di costruire un ospedale per gli ammalati più poveri. E viene a sapere di un cimitero abbandonato in quel momento, di un cimitero abbandonato che in quel momento veniva utilizzato per depurare acque residuali. In questo posto, pensate che la notte si recavano delle donne per abbandonare i loro neonati, che poi sarebbero stati sbranati o divorati dai cani. Quindi, pensate un po'. Ma quest'uomo dice: adesso prendo due, come diciamo noi, piccioni con una stessa fava. Quindi compro il terreno, in modo tale che non lo useranno più per questo ignobile fine, e al tempo stesso cercherò di costruire lì un ospedale. Che succede? Che comincia a costruire, però dopo poco tempo deve interrompere i lavori per mancanza di fondi, perché aveva già dato fondo a tutte le sue risorse per l'acquisto del terreno. A questo punto si raccomanda a San Giuseppe e pone in mezzo all'area una sua immagine chiedendogli aiuto. Poi va a chiedere finanziamenti ovunque e ne riceve talmente tanti che non solo riesce a portare a termine l'ospedale, ma addirittura ne costruisce anche di altri, e precisamente un orfanotrofio per bambini abbandonati, una casa famiglia per ex prostitute, un centro per non vedenti, un altro per invalidi, una scuola professionale per ragazzi, una scuola di arti e mestieri e addirittura 33 cappelle disseminate per tutta la regione. Inoltre, come catechista laico, prepara e battezza 200 persone, tra cui alcuni condannati a morte e battezzati prima dell'esecuzione. Quest'uomo, Lo Pa Hong, sembrava instancabile e continuò a lavorare fino al 30 dicembre 1937. A 64 anni morì martire della carità, assassinato da due sicari. Quindi, un santo del nostro tempo. San Giuseppe gli permise di realizzare un'opera grandiosa, senza pari, in poco tempo. Solo un paio di glosse, diciamo così, a questo episodio. Il primo, diciamo, di tipo un po' teologico, catechetico, perché magari qualche ascoltatore può rimanere un pochino disorientato se non è ben formato, perché dice: ma come, questo è un laico catechista e ha battezzato 200 persone? Ora, voi dovete sapere che il sacramento del battesimo, essendo un sacramento indispensabile alla salvezza, diciamo così, che oggi se ne dica in giro anche a volte da parte di qualche pastore un po' troppo rigido, e le condizioni sia per amministrare che per ricevere questo sacramento sono ridotte, diciamo, al minimo. Perché per battezzare un bambino, per esempio, è sufficiente che i genitori, pur non cristiani, non soltanto che non vanno a messa, non sono cattolici, quindi addirittura se fossero due musulmani, potrebbero chiedere di battezzare un figlio, sapevate voi? E il ministro che fosse chiesto una cosa di questo genere non potrebbe rifiutarlo con l'unica condizione che il padrino sia persona degna e stimabile che garantisca l'educazione cristiana del battezzando. Prima cosa. Da un punto di vista invece di amministrazione del sacramento, ci sono i ministri ordinari e poi c'è il ministro straordinario del battesimo, che il ministro ordinario è il sacerdote e il diacono. Ma in caso di necessità, chiunque, anche in questo caso, anche un non credente, pensate, può amministrare il sacramento del battesimo, purché nel caso che sia un non credente, qualcuno gli dica qual è la formula da usare: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e questo non credente abbia semplicemente l'intenzione, compiendo questo gesto, di fare ciò che la Chiesa fa. Quindi, questo speriamo che ci faccia comprendere un po' quanto è grande e quanto è importante questo sacramento, che oggi a volte vengono fatte delle scelte un pochino discutibili, vi devo dire la verità. Anch'io in un certo periodo della mia esistenza, preso da zelo malsano, ho ritenuto fondate alcune posizioni un pochino più severe, ma non è così, cioè nel senso di come dire, essere esigenti con i genitori, che facciano 3.000 incontri, 3.000 corsi, che il sacramento del battesimo è un sacramento importantissimo. Ecco, è una, secondo me, delle opere sataniche gravi, è stata quella di convincere un sacco di gente oggi a spostare nel tempo il battesimo. Addirittura qualcuno dice: facciamo battezzare i miei figli quando sono adulti, così possono scegliere loro liberamente il tipo di religione da abbracciare, no? Quasi come se, allora, se uno deve scegliere liberamente, allora aspettiamo che uno c'ha 18 anni prima di mandarlo a scuola, per vedere se vuole essere istruito o se vuole rimanere ignorante. Cioè, intanto tu lo battezzi, poi se non vorrà essere cristiano, il battesimo non è la rogna che ti porti addosso, insomma, no? Farai una vita completamente estranea. Da grande, purtroppo, perché Dio rispetta la nostra libertà, c'è la possibilità anche di apostatare, di diventare ateo, di cambiare religione, di fare quello che vuoi. Non è un marchio, come dire, di fabbrica che ti costringa poi, come dire, in maniera violenta a dover per forza abbracciare la fede cattolica, anche se tu in quella non ti riconosci. Quindi ricordiamole bene queste cose e raccomando anche a tutti gli ascoltatori, quindi, se la disciplina del battesimo è così, come dire, elastica, proprio perché questo è un sacramento così importante, vorrà dire che altra prassi brutta e da evitare è non soltanto di rimandare il battesimo quando uno è grande, ma anche di procrastinare troppo in là il battesimo. Cosa su cui io non sono mai stato d'accordo, eh? Cioè, il catechismo di San Pio X, che anche se adesso è uscito il nuovo catechismo non è mai stato abrogato, ovviamente ne potrebbe esserlo, raccomandava di fare il battesimo il più presto possibile, al massimo entro i primi 10 giorni di vita. Adesso se non sono 10 e sono 15 può anche starci, no? Ma io non approvo assolutamente, da un punto di vista pastorale, questo lo dico tranquillamente e cerco di trasmetterlo, ovviamente nel rispetto della libertà ai miei fedeli, che si vada a battezzare un figlio a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mesi. Mi è capitato qualche volta addirittura di battezzare un bambino a 4-5 anni, che poi ci sono delle scene che diventano quasi ridicole, no? Cioè, che mentre gli ungi con l'olio il bambino dice: scusa, ma perché mi metti l'olio in fronte? O cose di questo genere, no? Quindi, a mio avviso, l'importanza e la centralità di questo sacramento, di cui oggi si parla tanto, però sì, non sempre, a mio avviso, è sufficientemente valorizzato, andrebbe un pochino recuperato. Teniamo sempre presente, ascoltatori carissimi, che i sacramenti si trovano su un livello differente di potenza, di forza e di efficacia, perché è importante la predicazione, è importante la catechesi, è importantissima la formazione, per carità, ci stiamo tutti quanti lavorando e investendo, però tutto deve portare alle azioni sacramentali, perché poi la comunicazione della vita divina avviene soltanto attraverso i sacramenti, di cui il primo, la porta d'ingresso, è il battesimo. E la stessa cosa vale per gli altri sacramenti. Comunque, un'altra piccola postilla che volevo fare a questo primo episodio è la particolare benedizione che San Giuseppe mostra quando si intraprendono opere caritative a vantaggio del prossimo. San Giuseppe è particolarmente sensibile a questa cosa, eh. Vi posso dire che recentemente io qui ho avuto ospite. E per una testimonianza in parrocchia Paolo Brosio, che tutti quanti penso che di nome lo conoscano, personaggio pubblico, e Paolo Brosio che a seguito della conversione, non so chi di voi lo conosce, insomma, ha comunque, come accade normalmente in questi casi, come dire, protratto il filo della sua conversione in una serie di opere di carità e si era imbarcato in un'impresa per cui gli mancavano un sacco di soldi e aveva promessi per un'opera santa entro un certo periodo e si è messo a pregare San Giuseppe e Rosario a tutto spiano e gli sono arrivati in tempo utile i soldi necessari per completare l'operazione. Ecco, quindi è argomento particolarmente caro a San Giuseppe. Secondo episodio invece che ci avvicina un po' al tema del mese che sta per iniziare, che è novembre, che è quello appunto della Santa Morte, riguarda un vescovo missionario irlandese. Allora, questo vescovo, Monsignor Heyer, Si trovava in Sudafrica dove aveva esercitato il suo apostolato per molti anni. Durante una delle sue apostoliche camminate si perde. Non sapendo che fare, invoca il suo angelo custode, San Giuseppe e Nostra Signora del Buon Consiglio, proseguendo il cammino completamente disorientato. Finalmente giunge ad un gruppo di case. Un contadino che sta lavorando la terra vicino alla sua casa gli dice: "Lei arriva giusto in tempo perché nella casa di fianco c'è un uomo che sta morendo." Dite che bella storia, eh? Il vescovo entra in casa del moribondo e questi, vedendolo, scoppia a piangere di gioia ed esclama: "Io sono irlandese." Attenzione, irlandese come il vescovo, eh? "Quando ero bambino, mia madre mi insegnò a pregare San Giuseppe e a chiedergli la grazia di una santa morte, che è una delle cose da chiedere a San Giuseppe. L'abbiamo visto, credo, in qualche catechesi precedente. Io qui purtroppo ho l'Alzheimer che avanza, ma sicuramente ne abbiamo parlato già. San Giuseppe, patrono della buona morte, sì, ricordo bene. E quindi cosa dice quest'uomo? "Ho recitato questa preghiera tutti i giorni della mia vita. A 21 anni, dopo aver combattuto in guerra, sono rimasto in Africa. Ora che mi sono ammalato, ho pregato San Giuseppe con più fervore del solito ed egli mi manda un sacerdote in modo sorprendente. Anzi, non sono un sacerdote, ma un vescovo. Anzi, non sono un vescovo, ma un vescovo della mia stessa nazione, irlandese. Il giorno seguente l'uomo morì nella pace del Signore, avendo avuto una buona morte." Quindi questo miracolo a testa riprende un tema già da noi affrontato nelle precedenti catechesi. San Giuseppe, patrono della buona morte, vi ricordo un'invocazione pia e devota che si trova tra l'altro anche nelle preghiere di raccomandazione dell'anima dei moribondi a Dio, che è Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Attenzione, fratelli e sorelle carissimi, che è fondamentale avere una buona morte. Noi dobbiamo pregarci per questo. Anche su questo punto, la mia esperienza di parroco è assolutamente disastrosa. Non so se in sede di Radio San Giuseppe, in qualche altra catechesi o in qualche omelia, perché dopo non ricordo i miei interventi, ma io ho fatto un po' di conti, avrò celebrato. Sono prete da 9 anni e mezzo, quindi una media di una trentina di funerali l'anno. Quanti ce avrò celebrato? 200-250 funerali. Ma se io dovessi vedere quante estreme unzioni ho dato, si contano forse su due mani. Se uno vuole essere proprio generoso, forse su tre, ma siamo ampiamente al di sotto del 10%. Ah, per non parlare poi di quelli che mi avessero chiamato per fare le preghiere di raccomandazione dell'anima a Dio, molto importanti, e molti fedeli neanche lo sanno che esistono, e qui scendiamo ancora di più. E per non parlare del sacramento più importante che deve ricevere un moribondo, che non è l'estrema unzione, anche se è importantissima, ma è il viatico, è l'ultima comunione. Ah, in questi casi, guardate, di viatici ne avrò dati in vita mia forse in una sola mano. Perché la gente oggi fa questo discorso: non bisogna chiamare il prete, cioè, se chiamo il prete, lo chiamo quando il defunto è praticamente quasi arrivato, quindi sta già in stato di incoscienza. Tra l'altro, l'estrema unzione si può dare, ma l'estrema unzione si può dare sotto condizione. Perché nessuno può ricevere un sacramento contro la propria volontà, per cui sotto condizione significa che tu gli dai l'estrema unzione, e come dire, a condizione che il sacramento funziona, a condizione che il moribondo lo avrebbe chiesto qualora fosse stato vivo. D'accordo? Perché voi sapete che i sacramenti non possono essere ricevuti contro la nostra volontà, eccetto il sacramento del battesimo, che è il primo indispensabile alla salvezza e che, come sappiamo, si riceve appunto con il consenso dei genitori che hanno autorità sul figlio e sulla sostituzione vicaria che il padrino e la madrina in sede di rito fanno del battezzando. E Ma su questo punto disastro totale. Le confessioni che ho fatto di persone prima di morire, la confessione prima di morire è importantissima. Perché magari se ti viene in mente qualche peccato grave che uno magari ha fatto quando era giovane, e quando lo dici? Cioè, andrebbe curata particolarmente bene l'ultima confessione, no? Anche qui non possiamo prendere queste cose troppo alla leggera, io, insomma, in base alla mia formazione, in base alle cose che ho imparato, che ho studiato, ma che ho letto soprattutto, cioè, noi non possiamo e non dobbiamo pensare, che quelli che arrivano come dire, al contatto con la morte se ne vanno direttamente in paradiso, basta che non sono stati dei criminali, perché questo è oggi il parlare comune, no? Cioè, rapine non sono state fatte, omicidi non sono stati fatti, stupri non sono stati fatti, quindi cose di questo genere, quindi la persona è buona e quindi va in paradiso. Insomma, per andare in paradiso per direttissima, voi sapete che dalla geografia sappiamo, non dalla geografia, ma dalla agiografia, cioè dagli scritti sui o dei santi, sappiamo che anche qualche santo si è fatto qualche ora, o a volte qualche giorno di purgatorio, ma santi che hanno praticato le virtù cristiane in grado eroico, quindi no, non santi che oggi qui sono tutti santi. Io ogni tanto mi arrabbio, mi sono arrabbiato anche arrabbiato in senso buono, no? Perché un sacerdote non si deve arrabbiare mai, e stiamo cercando di imparare a fare questa cosa. Mi sono arrabbiato nel senso che ogni tanto si sente dire: quello è santo, quello è santo, quel prete è santo, quel frate è santo, quella suora è santa. E io dico sempre: dico, ragazzi, prima di canonizzare le persone, aspettiamo che muoiano e aspettiamo poi che la Chiesa faccia il processo di canonizzazione. Perché, ecco, a me non piace questa anticipazione malsana, ecco, malsana e fuori luogo, perché il giudizio sulla santità non compete, insomma, ai singoli fedeli, no, a meno che non si dica, beh, quello è un sant'uomo, cioè usando quindi un'espressione, come dire, non nel senso stretto, ecco. E parliamo poi di alcuni funerali, che a volte uno va a sentire il funerale. Sono tutti quanti canonizzati in sede di funerale, con la gravissima conseguenza, a mio parere, dal punto di vista pastorale, gravissima, che se uno va al funerale e sente dire: accompagniamo nelle mani della misericordia di Dio questo nostro fratello che sta già tra le braccia del paradiso, sta già nel regno della luce. Allora, se sta nel regno della luce, scusate, sicuramente non ci avrà bisogno di messe, perché sta già a paradiso, l'ha detto il prete. E quindi voi immaginate queste povere anime che sono morte, che sentono quelle cose, mentre sentono sta predica, poverine, stanno a mangiare le mani, perché dice: bravo questo, mo dice così, e magari stanno in purgatorio, e magari stanno in un posto anche abbastanza basso del purgatorio, e dice: con sta bella predica nessuno mi farà dire messe, chi lo sa quando esco di qui. A me sinceramente ogni tanto tornano in mente, vedendo e sentendo tante cose, le parole del Vangelo di 2 domeniche fa. Dice: ma il figlio dell'uomo quando tornerà, troverà la fede sulla terra? Perché queste cose dovrebbero essere ovvie, dovrebbero essere scontate. Però, gentilissimi ascoltatori, non so se volete, se è possibile intervenire, vi sembrano così scontate? Cioè, quando una persona muore, io raccomando sempre, anche ai miei fedeli, dice: che cosa scriviamo sull'epigrafe? È tornato alla casa del padre? Chi l'ha detto che quello è tornato alla casa del padre? Scusate. Cioè, queste sono cose che non si possono chiaramente dire nei contesti di funerali, no? Però noi non saremo mica sciocchi. E se quella è un'anima dannata che ti è tornata alla casa del padre? Non lo possiamo mica sapere. Le anime dannate ci stanno, non cominciate a pensare che l'inferno è vuoto, neanche che si può sperare che sia vuoto, che sono tutte quante stupidaggini. Gesù nel Vangelo non parla affatto di inferni vuoti. Ecco. Allora, secondo me bisogna scrivere nelle epigrafi ha reso l'anima a Dio, che è la verità. Cioè, quando muori, la tua anima esce dal tuo corpo, si presenta dinanzi al Signore dove riceve il giudizio particolare, come scrive San Paolo, per ricevere la ricompensa per le opere compiute, sia nel bene che nel male, davanti al tribunale di Cristo. Questo accade. Poi l'esito di questo giudizio noi non possiamo anticiparlo, non possiamo né canonizzare le persone né condannarle ipso facto all'inferno. Dobbiamo sperare che siano salve. Ma se sono salve, dobbiamo presumere nel 99,9% dei casi, salvo quindi martiri, bambini battezzati e santi strepitosi e fenomenali, che non sono andati direttamente in paradiso, quindi che avranno bisogno dei nostri suffragi. È per questo che c'è il mese di novembre. Voi sapete che ha scritto qualche mistico, non mi ricordo se era Maria Valtorta, Maria Simma o qualche altro addirittura santo e più attendibile, che la Chiesa nella sua sapienza ha messo il 2 di novembre. Il 2 di novembre ogni sacerdote, questo lo dovete sapere, è obbligato a celebrare una messa per tutti i fedeli defunti. E dicono questi che ci sono centinaia di migliaia, forse milioni, ma forse miliardi di anime che aspettano il 2 di novembre perché è l'unica messa che ricevono in tutto l'anno. Assurda una cosa del genere. Io racconto sempre, ma lo racconto non per me, lo racconto per dare testimonianze e per invogliare le altre persone a fare la stessa cosa. Quando sono morti mia madre e mio padre, sono morti tutti e due, io gli ho fatto dire, non so se 12, 13, 14 o 15 cicli di messe gregoriane per uno. Vuol dire che gli ho fatto dire qualcosa circa come 500 messe per uno. Ecco, d'accordo? E mi sono fermato soltanto quando ho avuto attraverso una serie di grazie particolari la percezione quasi certa e a mio avviso attendibile che non ne avessero più bisogno, ma comunque sono state celebrate 500 messe, mica una, eh. E i miei genitori, insomma, non erano criminali, terroristi o cose di questo genere, affatto. Erano persone brave, non erano santi da canonizzarsi sulla terra, ma non erano criminali e delinquenti. Ecco, però io mosso da motivazioni di fede, perché questa è la nostra fede cattolica, ascoltatori carissimi, mi sono sentito da figlio, ecco, in dovere di fare questo. Io non lo posso fare pur essendo sacerdote, perché io sono parroco, io ho tutte quante le messe occupate e non posso certamente non andare a dire le messe per chi me le chiede, perché sono morti mio padre e mia madre. E le messe non si possono dire per 500 intenzioni contemporaneamente. Andatevi a lamentare con i vostri parroci, eh? Chi fa queste cose fa un danno grave, è un abuso condannato dalla Chiesa. C'è un documento, diteglielo ai vostri parroci. I vescovi, anche qui è successo qualche anno fa, hanno ricevuto i rimproveri dalla Santa Sede dicendo di vigilare che non ci sia questa prassi balorda delle messe con 200 intenzioni a messa, che comincia la messa, cominciano a fare le chiamo le litanie dei santi. Non si può fare questa cosa. La messa può essere presa per un'intenzione, non per 50. La Chiesa consente questo per la vostra formazione. C'è un documento, cercatelo su internet, che dice: sai, nella parrocchia mia io sono da solo, si dice una messa sola al giorno perché ci sono solo io. Dice, tu c'hai più richieste di messe rispetto a quelle che riesci ad evadere. Allora la Chiesa dice, 2 volte alla settimana puoi prendere più intenzioni, ma devi avvertire i fedeli e devono sapere che questa cosa sarà fatta in quei giorni e in queste forme. Io poi, questo ve lo dico come prassi personale, se mercoledì ho 4 nomi, io faccio così, li ricordo tutti durante la Santa Messa. La messa la applico per uno di quei quattro e gli altri tre le faccio ricelebrare da un confratello sacerdote che non c'è la parrocchia, che non c'è intenzione di messe e che può comunque poi celebrare una messa a persona. Questo è quello che faccio io e ritengo che sarebbe opportuno così fare. Quindi questo discorso della buona morte è importantissimo, ragazzi, è fondamentale. E dobbiamo sempre pregare per la buona morte. Ogni tanto sento dire, ho sentito recentemente una persona a me cara che che stava commentando l'episodio di una morte di una persona di queste parti, insomma, che in qualche modo conosceva. C'aveva un'ottantina d'anni, dice che è andato a dormire, si è addormentato e non si è svegliato più. Ah, beato lui, che bella morte. Siamo sicuri che è beato lui, che bella morte. Ah, se è beato lui, che bella morte. Se la domenica prima era andato a messa, aveva fatto la comunione e si era confessato da poco. Ma se non stava in queste condizioni, quella non è mica una bella morte, eh? Cioè, gli insegnamenti dei santi padri e le preghiere anche che facevano, Signore, scampami dalla morte improvvisa. Perché il male non è che uno soffre un po' durante l'agonia, se così la provvidenza di Dio dispone. Il male è se tu arrivi alla morte, come dice Gesù nel Vangelo, impreparato, e quel giorno ti sorprende come un ladro. E il padrone di casa ritorna e ti trova, anziché a servirlo, a farti gli affari tuoi. Questo sta scritto nel Vangelo. Quindi, però ripeto, il figlio dell'uomo quando tornerà troverà la fede sulla terra, perché queste cose sono, ripeto, a mio modestissimo avviso, ovvie, però io vedo le facce che mi si presentano dinanzi, adesso siamo in radio, quindi le facce non le vedo, però vedo quelle dei miei fedeli in diretta quando ogni tanto parlo di queste cose, no? Dopo ti vengono a ringraziare, ma ti dicono anche, dice, ma allora queste cose non è che si sentono troppo in giro. Questo è quello che dicono. Una volta, due volte, tre volte, 30-40 volte, dopo uno c'è anche il pericolo di crederci, insomma, che non si sentano troppo in giro. Io spero di no, ecco, perché altrimenti sarebbe da preoccuparsi. Allora, terzo miracolo, non so se è l'ultimo, comunque vediamo. E questa volta riguarda è un'esperienza un pochino più elaborata, più complessa, un episodio un po' più lungo. Allora, alla fine del secolo XIX, un abate di un'abbazia in Francia, evitiamo i nomi che tanto non occorrono, un tale padre Giovanni fu testimone di un favore speciale da parte di San Giuseppe. Cosa era successo? Durante la mia permanenza nell'abbazia di Senanc, si chiama così, un pomeriggio il portinaio mi disse: c'è un signore che la cerca. Gli vado incontro, era un uomo ben piazzato, elegante, distinto nei modi, ma pareva turbato. A pochi passi da lui pascolava un bellissimo cavallo nero. L'uomo mi dice: io non la conosco. L'ho visto da lontano e l'ho fatto chiamare. Il mio cavallo mi ha portato tra le rocce e si è fermato davanti alla sua porta. Che casa è questa? E risponde: è un monastero. Quest'uomo continua: io sono il direttore del circo imperiale di Lyon. I miei affari vanno a gonfie vele. Ho ai miei ordini un personale numeroso, ma sono tormentato dall'idea del suicidio. Non ho mai conosciuto mio padre. A 7 anni ho perso mia madre. Quando morì, presi i pochi soldi che trovai e me ne andai nel circo vicino a casa. Ero completamente solo. Non avevo né parenti né amici. Il direttore del circo mi trattò come un figlio e quando mi morì mi lasciò tutto. Sono stato ovunque, ho guadagnato molto denaro, ma da qualche tempo non so cosa mi succede, mi sento disperato e voglio affogare. Mia madre, ascoltate bene, mi insegnò una preghiera che mi faceva recitare tutti i giorni. Dio ti salvi, Giuseppe, pieno di grazia divina. Benedetto sei tu tra gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto della tua sposa virginale. Ma avete riconosciuto? È una specie di Ave Maria decodificata in chiave giuseppina, no? Dio ti salvi, cioè questo sta traducendo letteralmente, chiaramente, dallo spagnolo, perché in spagnolo è Dios te salve Maria, llena eres de gracia. Cioè Dio ti salve potremmo tranquillamente dire Ave Giuseppe, pieno di grazia divina, benedetto sei tu fra tutti gli uomini. E benedetto è Gesù, frutto della tua sposa virginale. E poi la seconda parte, proprio ricopiata sull'Ave Maria, eh? San Giuseppe, destinato ad essere padre del figlio di Dio. Quindi vedete, Santa Maria, madre di Dio, no? Invece lui è destinato ad essere padre del figlio di Dio. Prega per noi, come nell'Ave Maria, prega per noi peccatori, nelle nostre necessità familiari, di salute e di lavoro. Attenzione, gli vengono poste queste tre cose, eh? Necessità familiari, di salute e di lavoro, non a caso, perché San Giuseppe è stato, abbiamo visto, il custode della Santa Famiglia, quindi è un muro, è un sostegno delle famiglie. San Giuseppe è il patrono dei lavoratori, quindi quando dobbiamo trovare lavoro, oppure il nostro lavoro, dobbiamo metterlo sotto la custodia di San Giuseppe. E la terza cosa, San Giuseppe era responsabile della famiglia e anche di fare in modo che il piccolo bambino Gesù crescesse sano, forte, in età, sapienza e grazia. Quindi è particolarmente sensibile San Giuseppe alle problematiche inerenti alla salute. Quindi prega per noi nelle nostre necessità familiari di salute e di lavoro e degna di venire in nostro soccorso nell'ora della nostra morte. Amen. Vedete come è ricalcato sull'Ave Maria, eh? Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amen. Prega per noi nelle nostre necessità familiari di salute e di lavoro, e degna di venire in nostro soccorso nell'ora della nostra morte, amen. Quest'uomo prosegue, quest'uomo, come dire, un uomo, come dire, un ateo di fatto, ecco. Dice, recito questa orazione tutte le notti prima di dormire. Oggi ho portato il mio cavallo in riva a Rodano, ma ha fatto un salto indietro ed è fuggito. Per la prima volta in vita mia non sono riuscito ad essere padrone del mio animale. Io lo abbracciai ed egli si commosse. Gli dissi: Lei cenerà con noi stasera. Dormirà sul duro pavimento e domani passerà il giorno qui. Rimase con noi 3 giorni. Questo era un uomo che, pensate, si era recitato per tutta la vita questa preghiera, pur essendo completamente incolto in fatto di fede, perché non si era né confessato mai, né fatto la comunione. Sentite, lo istruì sulle verità fondamentali della fede, si confessò e ricevette l'Eucaristia. Questo era stato soltanto battezzato. Poi ritornò ad Avignone completamente trasformato. Che cosa fa? Sistema i suoi affari, vende il circo, distribuisce il suo denaro ai poveri e addirittura si fa religioso. Alcuni anni più tardi venne preso da febbri altissime e morì come un santo, ancora giovane ed in incognito. Vedete quanto vale la protezione di San Giuseppe. Come mai gli sono successe queste cose? Perché quell'uomo era rimasto fedele alla sua preghiera, pur senza comprendere ciò che diceva. E a chi si rivolgeva? E ricevette la sua ricompensa. Attenzione, questa è una cosa molto importante su cui magari chiudiamo la catechesi di questa sera. Attenzione, quest'uomo ha pregato, essendo non un uomo fervoroso oppure di fede. La madre gli aveva insegnato questa preghiera da piccolino, gliela faceva recitare tutti i giorni e lui a pappagallo. Come gesto, come dire, di devozione nei confronti della madre che aveva perso quando aveva 7 anni, quindi non aveva neanche fatto in tempo andare a catechismo questo qui. Perso il padre, non l'aveva mai conosciuto, e la madre è persa a 7 anni, no? Vi ricordo la storia. E quindi diciamo che uno dei pochi ricordi che conservava della madre era questa preghiera, ma lui non si rendeva conto neanche di quello che diceva. Però, per il fatto di averla continuata a dire, ha ricevuto la grazia da San Giuseppe. Cosa vi dice questo fatto? Facciamo sempre molta attenzione, ragazzi. Io vi chiamo ragazzi, anche dovrei chiamare ascoltatori, perché spero che siamo tutti quanti giovani nell'anima. Anzi, dovrei chiamarvi bambini per farvi un augurio ancora più grande, come Gesù vorrebbe che siamo, secondo quello che dice nel Vangelo. E cosa ci insegna questo fatto? Che la preghiera, facciamo attenzione, ha un valore oggettivo in se stesso. Che significa questo? Allora, noi abbiamo imparato, ed è vero, attenzione a capire bene quello che dico, che la preghiera possibilmente va fatta bene. Quindi la preghiera ordinariamente andrebbe fatta in un certo modo, standoci con la testa, standoci possibilmente anche col cuore, standoci con la devozione, con l'attenzione, eccetera, eccetera. Ora, domanda agli ascoltatori. Quante volte quando noi preghiamo, se vogliamo essere sinceri, possiamo dire che abbiamo pregato in maniera degna, attenta e devota? Allora, può venire la tentazione di fare così, ma se devo pregare in questo modo non prego per niente. Oppure se devo dire tutto il rosario, che poi però mi distraggo, facciamo così, dico soltanto una decina detta con attenzione. Discorsi che hanno una parvenza apparente di verità e di fondatezza, perché è giusto, bisogna pregare bene, io sto davanti a Dio, ecco. Quindi meglio pregare poco ma bene piuttosto che pregare tanto ma male. Questo episodio, a mio modestissimo avviso, mette un pochino in crisi questa visione. Applicando un principio che più mi aumentano gli anni, più capisco quanto sia importante applicare, cioè che l'ottimo è nemico del bene. Cosa vuol dire? Che fermo restando che il nostro impegno deve essere sempre al massimo per pregare bene, bisogna comunque ricordare che piuttosto che non pregare per niente, è meglio pregare. Perché anche se la preghiera io non la sento e magari la vivo proprio in maniera... Il Padre Eterno la sente e il diavolo la sente. E quindi c'ha un valore e c'ha un'efficacia impetratoria nonostante che sia fatta in condizioni soggettive non ottimali. E quindi quando ci viene la tentazione di pregare di meno, di non pregare per niente, dobbiamo... E riconoscerla come tentazione e non come cosa opportuna che magari viene addirittura anche dalla volontà di Dio. Concludo, racconto un aneddoto che sicuramente lo racconta un figlio spirituale di Padre Pio, di mia conoscenza. È un aneddoto un po' estremo, però voi sapete che Padre Pio aveva il dono mistico straordinario, una grazia che è inutile che vi sforzate perché se non ve la danno dall'alto non viene, di recitare il rosario praticamente in maniera ininterrotta, anche quando dormiva. Tant'è vero che lui raccontava tranquillamente, confessava candidamente che diceva 100 corone del rosario al giorno. Se qualcuno degli ascoltatori lo ha mai fatto, lo prego di chiamare Antonio e di dirglielo e di spiegargli anche come ha fatto, così Antonio lo dice anche a me. E imparo pure io, insomma, no? Che già farne tre o quattro è una bella impresa, no? Allora, che succede? Un giorno, Padre Pio, come sapete tutti quanti, questo mettiamocelo sempre in testa, era un essere umano come tutti, quindi aveva delle necessità legate, mortificanti, legate alla fisiologia del corpo umano, e si trovava in un luogo che vi lascio immaginare quale sia, dove si compiono delle operazioni non proprio nobilitante il genere umano, diciamo, ma che ci ricordano la nostra stretta comunanza con il genere animale. E lui continuava a dire rosario. A un certo punto gli viene il pensiero e dice: pensiero era così, dice, ma tu che razza di frate sei? Ti metti a dire rosario mentre stai al bagno? Ma non ti vergogni? Ma ti pare una cosa devota? Ma ti pare una cosa gradita alla Madonna, ma tu non sai quanto è grande la Madonna, tu come ti permetti tu di mettere a pregare la Madonna in una circostanza così umiliante, così bassa? Per un istante lui raccontava che questo pensiero gli sembrava, perché penso che anche a voi che lo ascoltiate, dice, beh, certamente, insomma, non è proprio il massimo mettersi a dire il rosario mentre uno sta facendo alcune cose. Poi però ha avvertito un certo turbamento, e sapete come ha risposto a questa tentazione? Perché era una tentazione. Ha risposto così, dice, guarda, le Ave Maria che io faccio vanno sempre dalla terra al cielo, in qualunque luogo le faccio, e in qualunque forma le faccio, e comunque le dico. Mentre quello che sto facendo qui dentro va sempre dalla terra a sottoterra, e quindi io auspico che ti caschi proprio sulla capoccia tua per insegnarti un po' d'umiltà. Fine della tentazione. Ecco, penso che sia un episodio significativo per ricordarci il valore oggettivo della preghiera. Non abbiamo, pur dovendo sempre tendere al meglio, non abbiamo mai queste tentazioni, però che sono soltanto strumenti del nemico per farci pregare di meno. Ecco. Io mi fermerei qui perché vedo che il tempo è camminato, continueremo poi a Dio piacendo la prossima settimana.